Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Giugno 1986, Città del Messico, Stadio Azteca. Per i quarti di finale del campionato del mondo di calcio si affrontano Argentina e Inghilterra. Siamo al decimo minuto del secondo tempo. L'Argentina è da poco passata in vantaggio con un gol destinato a far discutere in eterno. La mano di Dio di Diego Armando Maradona ha beffato il portiere inglese Peter Shilton in uscita. Vane le proteste degli inglesi, che ora però vengono messi a tacere dallo stesso Maradona con una giocata incredibile. Maradona, lo marca andò, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha, il genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, Il gol del 2-0 di Maradona all'Inghilterra durante il Messico 86 è una delle reti più belle, emozionanti e cariche di significato della storia del calcio. Il motivo è tanto semplice quanto drammatico. Quello argentino a metà degli anni 80 è un popolo stremato che sta iniziando faticosamente a rialzare la testa. Dal 1976 al 1983, un brutale e selvaggio regime totalitario fascista, salito al potere con un colpo di Stato, funesta la vita politica e sociale della nazione sudamericana. Migliaia di dissidenti appartenenti a gruppi di sinistra e sostenitori della democrazia e della libertà semplicemente scompaiono. È il dramma dei desaparecidos. Spesso questi dissidenti vengono catturati, narcotizzati e gettati nell'oceano da un aereo. Molti vengono sottoposti a torture efferate. Nel 1982 il regime incassa un duro colpo. La popolarità è in calo di consensi, serve un atto dimostrativo. Il 2 aprile, un corpo scelto dell'esercito argentino sbarca nelle isole Falkland, arcipelago dell'Atlantico meridionale, da sempre occupato dagli inglesi e da sempre, però, rivendicato dagli argentini, che decidono di prenderselo. La reazione inglese non si fa attendere. Margaret Thatcher organizza una task force navale a tempo di record e riconquista le isole con un assalto anfibio dopo una sanguinosa battaglia e ingenti perdite da una parte e dall'altra. Le isole rimangono sotto il controllo britannico. In Argentina scoppia il malcontento generale e il governo militare nel giro di un anno cade. Sotto però cova il risentimento per l'umiliazione subita dagli inglesi per quelle isole ricche di gas e di petrolio che non appartengono a chi geograficamente se ne sentirebbe il legittimo proprietario. L'Argentina, che si presenta ai mondiali messicani del 1986 per la seconda volta guidata da Maradona, è spinta dal tifo e dai cuori di una nazione che sta iniziando solo ora a rialzarsi. La fine della dittatura, la lotta alla crisi economica lasciata in eredità al presidente Menem, cercano di tradursi in una sorta di primavera collettiva, che vede la propria profonda metafora nelle gesta di Diego e compagni. La portata simbolica del cammino della nazionale biancoceleste diventa ancora più forte quando nei quarti di finale il destino mette davanti agli argentini proprio gli inglesi, i castigatori delle Falkland. Diego non delude le aspettative e umilia gli inglesi. Segna il primo gol di mano, una scorrettezza impensabile, inimmaginabile, un colpo basso incredibile. Quel pugno sferrato alla palla, a superare il portiere inglese Shilton, non visto dall'arbitro, quell'esultanza indifferente, sorniona, svuotano d'un colpo le ambizioni e le certezze dei sudditi di Sua Maestà. Lo stesso portiere britannico ricorda quell'episodio. Ricordo che lo vidi entrare di corsa in area per raggiungere quel pallone che il difensore aveva alzato. Ero in anticipo, ero più alto. Probabilmente sbagliai anche il tempo dell'uscita, ma ero comunque in anticipo. E poi, improvvisamente, la palla era dentro la rete. L'aveva colpita col pugno. Aveva anticipato col suo pugno il mio pugno. Mi girai verso l'arbitro allibito e questo si voltò indicando il centrocampo, convalidando il gol. E io gli gridai: ma dove cazzo vai? Il secondo gol, 5 minuti dopo, è se possibile ancora più irrisorio. Con questo, Diego sembra dire agli inglesi: vi ho segnato di mano, sì, è vero, ma posso farvi gol in qualunque modo. Ricorda quel gesto tecnico incredibile il più forte giocatore di quella nazionale inglese, Gary Lineker. Quel gol è stato talmente incredibile che per la prima e unica volta nella mia carriera ho sentito dentro di me l'impulso di gioire con la squadra avversaria. Diego parte da centrocampo, salta come birilli 5 giocatori inglesi, scarta il portiere e appoggia il pallone in fondo alla rete. Diego Armando Maradona, un mito, una leggenda, un personaggio controverso, fatto di luci e ombre, di eccessi costanti, continui. Per alcuni, per molti, semplicemente il miglior giocatore della storia del calcio. In quel mondiale messicano del 1986, che l'Argentina concluderà trionfalmente, battendo in finale la Germania Ovest per 3-2, si vede probabilmente il miglior Maradona di sempre. Ha 26 anni, è tirato a lucido, forte, reattivo, fresco. Non tutto è merito della sua classe, del suo talento, del suo fisico brevilineo ed esplosivo. C'è un incrocio di destini dietro a quel miracolo di grazia e di classe, e tra poco scopriremo quale. Prima però facciamo un tuffo nella vita spericolata di Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona nasce a Lanús, nella provincia di Buenos Aires, il 30 ottobre 1960. Inizia a giocare giovanissimo nella squadra del padre, l'Estrella Roja. Il genitore è quindi il suo primo talent scout. Sempre talent scout, ma di professione, sono quelli mandati a vederlo dall'Argentinos Junior, la terza grande squadra di Buenos Aires, che lo preleva quando ha solo 10 anni. Diego ha giù un sinistro che sembra concepito da Raffaello o Michelangelo. Un piede d'oro che dipinge, incanta e stupisce. Con lui le giovanili dell'Argentinos non perdono più. Diego, giovanissimo, nelle prime interviste, dimostra di avere già le idee chiare. Mi primo sogno è giocare nel Mondiale e il secondo è salire campione. A 16 anni, Diego è titolare in prima squadra. Il suo sogno è di giocare e vincere un Mondiale. A 17 esordisce in nazionale in un amichevole contro l'Ungheria a Buenos Aires. L'allenatore dell'Argentina Menotti lo esclude dai mondiali del 1978 in quanto lo ritiene troppo giovane per una manifestazione così importante. Lo fa anche per preservarlo. I campionati si giocano proprio in Argentina e l'efferato regime totalitario del generale Videla vuole che siano una celebrazione di grandezza, una grande affermazione dell'immagine argentina nel mondo. Troppa pressione per un diciottenne. In maniera a dir poco furtiva, l'Argentina vince quel mondiale. Sus excelencias, los señores comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, integrantes de la Junta Militar. Hacer entrega el excelentísimo señor presidente de la nación. Archiviato il successo mondiale, arriva il momento di Diego. Diventa il leader della nazionale argentina a soli 18 anni, subito dopo il mondiale. Gioca contemporaneamente anche nella nazionale giovanile, che trascina la vittoria di 2 mondiali. Si aggiudica per 2 volte il pallone d'oro sudamericano e guida la sua squadra, l'Argentinos Junior, a vincere il campionato. Nel 1980 passa al Boca Junior. I tifosi inizialmente non lo vogliono, come dichiara anni dopo ai giornalisti lo stesso Diego. Passavo da una squadra all'altra di Buenos Aires. Comprensibile che inizialmente i tifosi non mi vedessero di buon occhio. Poi li ho convinti a suon di gol. Il Boca gioca nel mitico stadio della Bombonera, uno dei più caldi del mondo. diventa presto il giardino di casa di Maradona. Tutti i tifosi sono ai suoi piedi. Segna 28 gol in 40 partite e il Boca vince il campionato. I tifosi impazziscono di gioia. Alla vigilia del Mondiale 1982, l'Argentina incorona il proprio re. I mondiali del 1982 si giocano in un'altra nazione che ha ancora fresco il ricordo di una dittatura, quella di Francisco Franco, morto nel 1975, e ha voglia di crescere e riscattarsi, la Spagna di Re Juan Carlos. Per Maradona è un mondiale particolare. Proprio una squadra spagnola, il Barcellona, aveva mandato i suoi emissari a Buenos Aires con l'equivalente di 10 miliardi di vecchie lire per prelevare Maradona dal Boca. L'operazione era andata a buon fine. Così il Pibe de Oro assapora con il Mondiale spagnolo il clima in cui giocherà negli anni successivi. Il Mondiale spagnolo però per Dieguito non va come dovrebbe. L'Argentina non gioca il suo miglior calcio. La concorrenza è spietata. Dopo qualche prova non esaltante, nella seconda fase a gironi, i biancocelesti capitano in un girone di ferro con il Brasile e con l'Italia di Enzo Berzot. Sono proprio gli azzurri a dare una lezione agli argentini con un 2-1 secco e perentorio. Diego non tocca praticamente palla. Ad annullarlo una memorabile marcatura di Claudio Gentile, che spiega ai giornalisti come si è preparato per controllare il Pibe de Oro. Beh, me lo sono studiato per 2 giorni con dei video. Ho capito che l'unica strategia era rimanergli incollato per 90 minuti, soprattutto quando non aveva la palla. Bisognava scoraggiare i suoi compagni dall'idea di dargli la palla. Quando la riceveva, beh, diventava veramente dura. Gentile quel giorno lo è solo di nome, non certo di fatto. La sua marcatura è rude, spietata, ma mai scorretta, nonostante un pantaloncino strappato all'avversario per troppa foga. Diego soffre, si lamenta, sbraita. Viene anche ammonito per proteste. L'Italia vince e si invola verso il titolo. L'Argentina delude anche contro il Brasile. Maradona viene addirittura espulso per un fallo di reazione ed esce di scena. Batista! Batista entrò! Maradona deu! Esteu no estômago do Batista! A Barcellona, Diego gioca 2 anni, dal 1982 al 1984. Nella prima delude, complice un'epatite virale che lo tiene fuori dai campi per 3 mesi. Nella seconda ingrana, finché non incrocia i tacchetti con il macellaio di Bilbao. Alla quarta giornata di campionato il Barcellona domina l'Athletic Bilbao. In marcatura su Maradona, Andoni Goicoechea, uno dei giocatori più violenti che il calcio ricordi. Maradona non gli fa vedere la palla. Il difensore, frustrato, con un'entrata da codice penale, gli spezza una caviglia. La carriera di Diego sembra in pericolo, ma Diego è forte. Il suo passato l'ha forgiato, gli ha dato un carattere forse a volte problematico, ma spesso decisivo. Si rimette a tempo di record e torna in campo. Porta il Barcellona in finale di Coppa del Re, proprio contro l'Athletic Bilbao di Goicoechea. Il Barcellona perde, ma la vendetta sportiva non interessa a Maradona. Succede il finimondo. A fine partita, Maradona aggredisce con calci e pugni Goicoechea. I compagni dell'Athletic difendono il macellaio di Bilbao. Scoppia una rissa furibonda da Far West. Tutti contro tutti. Una scena impressionante. Pochi giorni dopo, Diego va da Re Juan Carlos, che era in tribuna, e si scusa ufficialmente. Il presidente del Barça, Núñez, decide però di cederlo. Si scatenano i più grandi club d'Europa. Ad aggiudicarselo il sorprendente e ambizioso Napoli di Corrado Ferlaino. Dopo un mese di difficili trattative, il Napoli chiude l'affare per 13 miliardi e mezzo di lire. Il contratto viene firmato senza che il Napoli disponga della liquidità per regolarizzare l'acquisto. Il denaro verrà versato solo in un secondo momento. La leggenda vuole che Ferlaino, alla scadenza del calciomercato, depositi in federazione una busta vuota, facendo credere che contenga il contratto firmato da Diego. Questo per guadagnare tempo, per chiudere nei giorni successivi la trattativa con i catalani e sostituire poi la busta vuota con quella regolare. Trattative pennellate di quella romantica pirateria che oggi non esiste più. O prima e ultima sarai per me. Il Napoli, in 53 anni di vita, non ha mai vinto un campionato. Sotto il Vesuvio, la passione incandescente, viscerale, palpitante dei tifosi partenopei trova una nuova guida. Diego è il nuovo re, è il messia, è il profeta che deve rompere il dominio tutto nordico delle milanesi e della Juventus. È l'uomo del riscatto. ...60.000 persone pagano 1.000 lire per vedere Diego palleggiare in tuta per 15 minuti. Il pubblico che lo acclama già sogna. Insieme a loro c'è il nostro secondo personaggio di oggi. Non è tra il pubblico quel giorno, ma in campo. Fa parte dello staff del Napoli. È il medico e massaggiatore della squadra. Si chiama Salvatore Carmando. Salvatore Carmando. Diventerà il migliore amico di Diego. L'uomo in grado di lucidargli il motore e di lanciarlo a mille ad affondare gli inglesi. Anche lui, napoletano nell'anima. Napoli mille colore. Napoli mille paure. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati siamo partiti dal Messico, dal gol più bello della storia del calcio, quello che Maradona realizza contro l'Inghilterra nei quarti di finale del Mondiale. È il Maradona più in forma di sempre. Chi è l'uomo che lo ha messo a punto fisicamente così bene? Per scoprirlo, siamo tornati indietro di 2 anni, a luglio 1984. Maradona sbarca al Napoli. La città lo venera come un dio. È come Robin Hood. Deve rubare le vittorie ai ricchi del calcio, Juventus, Milan, Inter, per darle ai poveri, a chi ha sempre subito. A Napoli, Maradona incontra un uomo che diventerà speciale per lui. È il massaggiatore della squadra, napoletano Doc. Per il momento, quasi un perfetto sconosciuto. Salvatore Carmando. Carmando non è un semplice fisioterapista, non è solo il medico sociale del Napoli. La sua faccia spontanea, viva, brillante, è un simbolo di qualcosa che non c'è più, di un calcio diverso, pulito, sentito. Un calcio in cui c'era spazio per le bandiere, per i sentimenti, per l'umiltà. A Vecchierella, questo è il soprannome che Carmando aveva presso gli ambienti del Napoli Calcio, nasce a Salerno il 29 ottobre 1943. Approda alla squadra partenopea il 1 settembre del 74. Sono anni buoni per gli azzurri, la quarta squadra d'Italia per numero di tifosi dopo la Juventus, l'Inter e il Milan. Sono gli anni di Burnic, Savoldi, Clerici, Bruscolotti. Anni in cui il Napoli si piazza secondo o terzo e lotta per lo scudetto. Vince una Coppa Italia, da spettacolo grazie alle innovative idee tattiche di Luis Vinicio. Carmando massaggia i muscoli dei campioni che transitano al San Paolo. Croll. Nell'80-81 il Napoli sfiora lo scudetto grazie alle prodezze dell'olandese Ruud Krol. Tanti successi, ma nessun titolo. Nel 1984 il presidente Corrado Ferlaino decide che è tempo di una svolta. Bisogna portare il Napoli verso grandi traguardi. Nell'84 in Italia accadono molte cose. Alcune di queste fanno sembrare quasi necessaria la svolta ambiziosa di Ferlaino, il suo tentativo di riscatto calcistico del Napoli rispetto all'egemonia del Nord. Ad esempio, il 1984 è l'anno in cui viene fondata ufficialmente da Umberto Bossi la Lega Lombarda, ora Lega Nord. Il movimento autonomista di Bossi si propone come strenuo paladino degli interessi dell'Italia settentrionale a scapito del fardello meridionale. L'arrivo a Napoli di Maradona in quel luglio 1984 suona come una secca e netta risposta dell'orgoglio napoletano. 2291991, un giorno come tanti ma non certo per qualcuno, qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo, reprimendo, attento, ascolta, dico, reprimendo chi da solo denuncia e combatte, si fa niente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Officina 99, curro, curro, vaglio, curro, curro, vaglio, io. Salvatore Carmando stringe da subito un'amicizia sincera e profonda con Diego. Si affeziona subito a quel ragazzo con quell'improbabile acconciatura riccia e folta e lo sguardo vivo e ribelle venato di malinconia e rabbia. Lo prende sotto la propria ala, lo guida nel progressivo inserimento nella città partenopea. Lo aiuta a trovare la serenità necessaria a diventare semplicemente il migliore. Nella prima stagione al Napoli, Diego delude le aspettative. O meglio, delizia il pubblico con giocate strepitose, ma spesso non decisive. La squadra intorno a lui è mediocre e si piazza anonimamente a metà classifica. In estate, Ferlaino mette nuovamente mano al portafogli. Acquista Bruno Giordano, Claudio Garella, Alessandro Renica e promuove in prima squadra Ciro Ferrara. Il Napoli parte alla grande. Uno dei momenti più forti di quell'inizio di stagione è quando il 3 novembre gli azzurri ospitano la Juventus. I napoletani si contendono a fatica i biglietti per la gara. Questo è il biglietto, ho pagato 75.000 lire martedì e avevo paura che era falso. Invece ho incontrato delle persone e mi hanno detto che è buono questo biglietto e quindi mi è passato la paura. Sasaka Armando è vicino al suo campione, lo prepara nel migliore dei modi. Lo carica anche qualche dichiarazione forte affidata alla carta stampata. Da quando c'è Diego sappiamo che tutti i sogni si possono realizzare. Tutta la città gli chiede una cosa sola: battere la Juventus. Maradona da quella stagione ha adottato uno strano rito scaramantico. Prima di iniziare la partita va a bordo campo e bacia la testa di Carmando, un portafortuna. Il San Paolo è una bolgia. Maradona risponde da campione. La Juventus di Platini non riesce a contenerlo. Diego vola. Con una delle sue magie si libera di mezza difesa, viene steso in area. Incredibilmente l'arbitro non dà il rigore, ma punizione a due in area, come ricordano i compagni di squadra Nando De Napoli e Giuseppe Bruscolotti. È una punizione a due, che non poteva calciare direttamente in porta. Siamo stati lì per un minuto, forse un paio di minuti, a parlottare con l'arbitro per evidenziare che lì non c'era distanza, che la barriera stava a 5 metri. Ma davanti c'è la Juve e l'arbitro ha un occhio di riguardo. La barriera rimane lì. Maradona lancia uno sguardo all'amico Carmando in panchina. Si scambiano un cenno di intesa. Poi Diego si rivolge ancora a Bruscolotti. E dopo un po' disse: vabbè, va, tiro lo stesso. Tanto gli faccio gol comunque. Quando vediamo quella palla che si alzò a 5 metri sopra la barriera e Taconi che si stava rompendo la testa vicino alla palla. Per me quello è stato uno dei più bei gol che ho visto da quando gioco a calcio. Il Napoli batte la Juve, il San Paolo incorona il suo profeta. Carmando impazzisce di gioia. Il bacio rituale sulla fronte diventa un simbolo e lo stesso massaggiatore, da semi sconosciuto, diventa l'idolo dei tifosi, una bandiera. A fine anno il Napoli arriva terzo. Sono le prove per il grande trionfo. Siamo a maggio del 1986. Diego si prepara per i mondiali che vuole vivere da protagonista. Fa una richiesta alla nazionale argentina. Vuole con sé Salvatore Carmando. Deve essere lui il fisioterapista della nazionale. Sasà andrà ai mondiali con il suo amico, il suo eroe. Sarà lui a lustrargli i muscoli per la corsa al titolo, a prepararlo per quel gol leggendario e non solo. Tra poco, a destini incrociati. Lei è bella, lo so, è passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora. Io vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Questo è un amore di contrabbando. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati racconta la storia di un incontro, di un'amicizia storica che fa grandi due uomini, una città, una nazione. È quella tra Diego Maradona e Salvatore Carmando, lo storico massaggiatore del Napoli Calcio. La città naturalmente è Napoli, la nazione l'Argentina. Eh sì, perché nel 1986 Diego si porta dietro l'amico fisioterapista ai mondiali messicani. Per il medico salernitano, che aveva sempre vissuto e lavorato nel Golfo del Vesuvio, arriva l'esperienza dei campionati del mondo oltreoceano. Arriva la consacrazione internazionale. Arriva, insieme al Pibe de Oro, il massimo all'oro. Campioni del mondo. Fischia alla fine l'arbitro. 13° campionato del mondo. L'Argentina diventa campione del mondo. Vedete le scene di straordinario entusiasmo. Per Carmando inizia una nuova carriera. È uno dei fisioterapisti più richiesti del calcio nazionale. Ai mondiali del 1990, la federazione italiana non vuole più vederlo sedere sulla panchina di un'altra nazionale. È il massaggiatore degli azzurri, che sfiorano il titolo. Comincia dunque il penultimo atto del mondiale in due tempi. Questa sera al San Paolo, Italia-Argentina, domani allo Stadio delle Alpi di Torino, altro scontro di gran tradizione, Germania contro Inghilterra. Qui siamo all'interno dello stadio di San Paolo in Napoli. C'è grande entusiasmo, tifo correttissimo fino a questo momento. L'Argentina è arrivata a questa semifinale giungendo terza nel proprio girone di qualificazione, poi battendo a Torino il Brasile e ai rigori a Firenze la Jugoslavia. L'Italia ha finora sempre vinto. Ed ecco l'attesissimo Maradona, non è in perfette condizioni. Le speranze sfumano in una serata che per Salvatore ha un sapore particolare. Nella sua Napoli, il suo San Paolo, contro l'Argentina del suo Maradona. L'Argentina ci fa fuori ai rigori. L'Argentina è finalista in Coppa del Mondo. Una volta ancora passa attraverso i calci di rigore. Serata di grande delusione per noi. Tra i due mondiali però, Carmando si toglie la soddisfazione di vincere ben due scudetti con il Napoli. Sono i primi due della storia del club partenopeo. È una gioia immensa. Il titolo arriva nel 1986-87. Maradona guida il Napoli attraverso un campionato perfetto. L'allenatore del team è l'ottimo Ottavio Bianchi, che costruisce il team intorno a Maradona e il suo staff intorno a Carmando. Il Napoli si toglie la soddisfazione di battere la Juventus a Torino dopo 32 anni. Vince dopo il pareggio in casa 1-1 con la Fiorentina e la festa può iniziare. Questo ha stato con me quando forse nessuno stava con me, per quello che io lo voglio tanto, tanto come un fratello, veramente. Carmando, grazie a te, grazie per tutto quello che fai per noi. Io voglio dare veramente una soddisfazione a questo pubblico napoletano che è meraviglioso. Dedico questo scudetto solo ai tifosi napoletani, perché ci sono stato dal primo giorno, dalla prima partita fino all'ultima. Viva Napoli! L'anno successivo arrivano nuovi innesti. Careca e Alemão su tutti. Il Napoli coglie due secondi posti, dietro il Milan di Sacchi, Gullit e Van Basten prima, e dietro l'Inter dei record di Trapattoni e Lothar Matthäus poi. Arriva anche una vittoria europea, in Coppa UEFA. Nel 1989-90, alla vigilia del Mondiale, arriva il secondo scudetto. Uno scudetto contestato. Le polemiche arrivano da Milano, sponda rossonera, e hanno proprio Carmando come protagonista. La partita incriminata è Atalanta-Napoli, decisiva per la corsa a due tra Napoli e Milan dell'8 aprile 1990. Il brasiliano Alemão viene colpito in testa da una monetina, mentre il punteggio è sullo 0-0, un pareggio che favorirebbe il Milan. Carmando va da Alemão, che sta per rialzarsi. Stai giù, gli dice. Fiuta la possibilità di una vittoria a tavolino che arriva, insieme al crollo del Milan, qualche giornata dopo, nella fatal Verona. I pianti rossoneri, però, non sono del tutto giustificati, come ricorda Gianni Minà. Il Milan griderà allo scandalo e alla farsa messa in atto da Alemão su suggerimento del massaggiatore Carmando. Ma i media che sosterranno questa tesi colpevolmente dimenticheranno che quella domenica 8 di aprile anche il Milan fu aiutato dalle circostanze. Fu aiutato da una svista dell'arbitro Lanese, che non vide il pallone scagliato dal bolognese Marronaro oltrepassare di oltre mezzo metro la linea bianca della porta milanista. Quello che conta però è che Diego ha portato Napoli e Carmando in cima all'Italia, per ben due volte. E con il Mondiale del 1990, con quel trionfo al San Paolo, si chiude un ciclo. La finale di Italia 90 sarà amara per Diego, con i fischi dell'Olimpico sull'inno argentino. Il suo insulto al pubblico italiano, Hijos de puta. Il rigore inesistente con cui la Germania si aggiudicherà il titolo. Dalla stagione successiva, con la squalifica per cocaina, si chiude la sua straordinaria parentesi napoletana e iniziano le ombre, le polemiche, gli accessi. È un'altra storia e noi non vogliamo raccontarla qui e ora. Ci interessa dire che Salvatore Carmando è rimasto sulla panchina del Napoli fino all'inizio di questa stagione, quando la gestione tecnica di Donadoni non l'ha più incluso nei piani, dopo 34 anni. Diego, che da Sassà si era fatto accompagnare anche nel Mondiale americano del 1994, finito però con una prematura e controversa squalifica per doping, manda una lettera di saluto al vecchio amico che si conclude con le parole: «Ciao Salvatore, mi mancherai. Stai tranquillo però». Diego, in una celebre intervista a Gianni Minà, ricorda così il temperamento del vecchio indimenticabile amico che l'aveva reso imprendibile per i difensori inglesi. Era troppo brutto quando vai a Verona e ti mettono uno striscione, lavatevi. È dura e ti dà forza. Vedere a Carmando piangere perché perdevamo 2-0 e lo striscione diceva lavatevi, napoletani. E abbiamo pareggiato 2-2 e Carmando e Tomás le facevano così, no? And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.